dunque l'occulta e grave verità del suo cor, ti dà la figlia. Per confessarla, tosto ti verrà prostrato. E tu mi narri, amor, con le sue faci, l'anima in senti accese. Amor vendato, per gloria delle piaghe e degli incendi, m'accese mi ferisco suoi begli occhi. Dunque, sol perché amante segui la fe romana? No, gran Tito, il tuo merto prima l'altar del nome portò il mio cor di voto, la belta poscia di vitella e il senno insinuar per le sue nozze il voto. Dal nodo io non dissento, ma genio Calatini mostra vitellia, l'accoppiarsi vieta a chi a Roma è nemica. E se ben dice colei ciò che sinora niegò di palesar, quando ella viva rubella della patria, lacerata per via, giusto è che mora.